Avevamo detto che sarebbe stato un evento straordinario e lo è. Molti cittadini guardano questo progetto come una speranza per cambiare la politica italiana e per cambiare l'Italia e ce lo hanno dimostrato andando in massa a votare. Credo che sia un voto straordinario che impegna il Partito Democratico che nasce con questa legittimazione democratica popolare così grande a onorare la fiducia e le aspettative dei tanti che oggi con il voto hanno voluto essere fondatori di questo partito. E la domanda principale è ancora una volta una domanda di unità. Un grande Partito Democratico sarà uno strumento essenziale per dare maggiore coesione, maggiore solidità al centro-sinistra e maggiore forza al governo Prodi.